Diciamo che è un lavoro che è iniziato, vista la vicenda del portico dell'Annunziata, mesi fa, insomma attraversando anche il piano di allerta climatica freddo con un lavoro degli operatori sociali che lavorano in strada e nei mesi scorsi accogliendo circa 17 persone, tra coloro che insomma hanno accettato l'accoglienza in quel periodo in cui le temperature erano più rigide e poi di recente avendo intensificato il lavoro preliminare alla giornata di oggi, vista insomma un po' anche l'ordinanza da rendere esecutiva questa mattina con diciamo, gli operatori sociali delle unità di strada abbiamo di fatto fatto un lavoro molto intenso e diciamo arrivando ad accogliere rispetto alle 27 presenze che avevamo registrato una settimana fa circa 12 persone nei giorni scorsi, altre 3 hanno accettato questa mattina perché diciamo nel lavoro integrato che avevamo organizzato tra sociale e polizia locale il ragionamento era che anche oggi durante insomma, l'intervento della polizia locale fosse presente qualcuno del pronto intervento sociali pronti ad accogliere o comunque a colloquiare, fare dei colloqui con chi avesse bisogno dell'accoglienza anche nella mattinata di oggi. Questa mattina la polizia locale al suo arrivo ha trovato 6 persone rispetto appunto alle 27 che avevamo monitorato nell'ultima settimana, tra persone accolte e altre che in realtà spontaneamente, forse insomma prevedendo quello che insomma sarebbe successo oggi, si sono allontanate. La mattinata si è svolta tutto sommato senza grandi problemi, le persone sono state abbastanza collaborative, hanno colloquiato con il PRIS e appunto 3 dovrebbero entrare in accoglienza già stasera, delle altre un paio ci hanno già detto dove vorrebbero andare a dormire, quindi le raggiungeremo di nuovo con gli operatori di strada, ecco, quindi un po' il lavoro è stato questo. L'accoglienza prevede posti in dormitorio, giusto? Sì, diciamo che noi avevo detto circa una decina di giorni fa che ci sarebbe stato posto per tutti quelli che erano lì e quindi avevamo tenuto di fatto pronti tra insomma circa 25 posti e all'interno delle strutture dell'accoglienza comunale, quindi di fatto sì, sono sia diciamo l'ala Beltrame, che insomma chi conosce un po' il mondo dell'accoglienza sa cos'è, Villetta Mattei, così come altre strutture, quindi le avevamo un po' previste in vari punti di accoglienza. Una cosa che è circolata sui giornali anche nei giorni scorsi, capire quanto tempo poi queste persone potranno trovare riparo, accoglienza lì. Certo, questo è un tema che in realtà vale per tutti, nel senso che una volta che insomma le persone, oggi insomma siamo stati anche, cioè, anche un po' un sollievo che almeno chi non aveva accettato fino a ieri oggi abbia detto di sì, e certamente valgono poi le regole che valgono anche per gli altri e dunque diciamo fino a un mese, e ci daremo questo arco di tempo per insomma capire se insomma c'è un lavoro da fare su cui si trova un po' anche una sintonia con queste persone per poter lavorare come su tutti gli altri, quindi sì, in effetti è diciamo tanto una durata di un mese, poi si vedrà. Quindi insomma viene costruito comunque un percorso per magari trovare soluzioni anche più stabili? Allora, il punto è questo, che una volta che chiaramente si entra nell'accoglienza e il lavoro con gli educatori e gli operatori sociali è un po' più semplice ovviamente che magari in quei pochi minuti che ci si rapporta in strada. Chiaramente quando si entra in accoglienza si possono avere diversi effetti, nel senso che a volte appunto questo lavoro viene fatto con più agio, in altre situazioni c'è magari un rigetto della persona per varie questioni che possono avere a che fare magari con una situazione di dipendenza, no? O altro, per cui a volte ci sono alti e bassi, quindi a volte magari stanno qualche giorno, escono, poi rientrano, perché a volte anche resistere nell'accoglienza non è semplice per chi fa vita di strada da tanto tempo. Le persone che erano all'Annunziata non tutte sono con una lunga storia di strada, alcune sono in strada da poco tempo, quindi magari questo ci può aiutare a fare con loro un lavoro specifico. Però insomma sappiamo anche che negli ultimi mesi si era un po' il passaparola tra le persone che fanno vita di strada, passa la voce che lì tutto sommato si poteva stare, che la parrocchia comunque aveva con loro una relazione insomma comunque anche di cura, e quindi c'era stato anche un ricambio e si sono affacciati all'Annunziata anche persone che magari avevano una lunga storia di strada. Quindi diciamo che anche la presenza lì sotto è molto cambiata nell'arco dei mesi, e questo lo hanno osservato non solo i parrocchiani che insomma li incontravano quasi tutti i giorni, ma anche gli operatori di strada e lo stesso parroco se lo ha detto sia di persona che tramite delle dichiarazioni rilasciate alla stampa.